Giovani Talenti. Giovani Talenti di Sergio Nava. Buongiorno e bentrovati all'appuntamento settimanale con Giovani Talenti, voci dalla nuova emigrazione. Oggi puntata di eccezione con un ospite di eccezione, un giovane manager di soli 36 anni e da ben 5 a capo della sezione americana degli imprenditori italiani nel mondo. Con lui parleremo della nuova classe dirigente, giovane ed espatriata, che si sta formando fuori dai nostri confini. Potrà tornare questa classe dirigente e prendere le redini di un paese dal quale sta fuggendo un'intera generazione? Nel notiziario nuovi preoccupanti dati sui giovani laureati, ma torniamo alla storia della settimana. Sono un manager che è pronto a sporcarsi le mani, infatti tuttora visito i miei clienti, monto pezzi, aiuto i miei venditori nelle loro attività, tuttavia faccio anche report a queste amministrazioni, sofisticate analisi finanziarie, eccetera, eccetera. Ma sarebbe stato mai pensabile un incarico di questo prestigio alla tua età in Italia, per di più da straniero? No, assolutamente no. Tommaso Veneroso, 36 anni, è presidente della società statunitense Amcast, nonché leader degli imprenditori italiani in Nord America. Della sua storia parleremo tra pochi minuti. Ora spazio al notiziario. Un notiziario molto ricco, quello di questa settimana. In apertura, nuovi dati sui giovani dal rapporto Alma Laurea. I laureati specialistici biennali che lavorano all'estero a un anno dal titolo sono il 4,5% del totale, uno su tre è ingegnere. A 12 mesi dalla laurea ha un lavoro stabile il 48% dei talenti in fuga, più 14% in più rispetto a chi resta qui. All'estero i nostri laureati godono di più contratti a tempo indeterminato, 45% contro 26%, eppure le retribuzioni medie mensili sono notevolmente superiori, al di là delle Alpi, 1568 euro. Contro i 1054 dei colleghi in Italia. Infine, per ogni cervello in entrata ne esce uno e mezzo. L'Italia perde talenti. E un altro dato ci preoccupa. Secondo Alma Laurea, in Italia i laureati sono ancora pochi, ma per paradosso non vanno a ruba sul mercato del lavoro. Il numero di dottori ha iniziato a ridursi nel 2008 ed è destinato a contrarsi ulteriormente. In calo anche gli aspiranti laureati, tutte le facoltà perdono iscrizioni. E come anticipavamo, i laureati faticano a trovare lavoro in Italia. Tra i dottori del 2009 la disoccupazione è in crescita, 16% per i triennali, 18% per gli specialistici biennali. Per l'agenzia di selezione Bachelor, lo scorso anno l'80% dei laureati da 2 anni in economia ha ottenuto un contratto indeterminato. Sempre secondo Bachelor, e a livello generale, tra i laureati del 2010 solo il 13,3% ha un contratto indeterminato, uno su tre svolge stage, mentre il 40% naviga nel mare dei contratti a tempo determinato, a progetto o apprendistato. E ricordiamo ora il recente monito lanciato dal governatore di Banca Italia Mario Draghi. I salari d'ingresso dei giovani sul mercato del lavoro sono fermi da oltre un decennio, su livelli al di sotto di quelli degli anni 80. Il tasso di disoccupazione giovanile sfiora il 30%. Si accentua la dipendenza dalla ricchezza e dal reddito dei genitori, dice Draghi. La Svizzera all'attacco della nuova legge italiana per il rientro dei cervelli, la norma che prevede incentivi fiscali solo per i cittadini comunitari per far entrare nella penisola i migliori talenti, potrebbe essere contraria alla convenzione di doppia imposizione tra Berna e Roma. La Confederazione cercherà una soluzione presso la Commissione europea. E ora spazio alla nostra rubrica Job Abroad sulle migliori opportunità di lavoro all'estero. Oggi vi segnaliamo. Un account manager alla sede di Google a Bruxelles, a scadenza per il CV 14 marzo, info su google.be. Una group leader nelle relazioni pubbliche alla ONG European X-Ray di Amburgo, scadenza per il CV 30 aprile, info su xfel.eu. E infine un fisico o un ingegnere applicato al CERN di Ginevra, scadenza per il CV 17 marzo, info su cern.ch. La storia di questa settimana di Giovani Talenti ci riporta a New York. Nel cuore della Grande Mela vive e lavora un giovane manager italiano di successo. Nome: Tommaso. Cognome: Veneroso. Età: 36 anni. Città di origine: Udine. Studi: al momento sto completando un master all'International Affairs alla Columbia University. Anno in cui hai lasciato l'Italia: vivo negli Stati Uniti dal 99. Per andare dove? A New York. Perché? Opportunità di confrontarmi col mondo, desiderio di scoprire nuovi orizzonti. Quale lavoro svolge attualmente? Sono amministratore delegato di un'azienda americana, la Amcast Inc., e sono presidente della Confederazione degli Imprenditori Italiani nel Mondo. Dove? A New York. Tornerai? Vorrei veramente vivere in entrambi paesi. Posso fare molto con l'Italia da fuori, credo. Oh, beautiful. Oh, beautiful. In liberating strife. America the Beautiful, Ray Charles, per introdurre la storia di Tommaso Veneroso. Ritengo che la cosa migliore che possa fare per aiutare il mio paese è creare opportunità di lavoro, sensibilizzare le istituzioni circa il fatto che esiste una nuova classe di giovani dirigenti, ricercatori, scienziati che parlano italiano e che con il loro lavoro rafforzano dall'estero i rapporti con la madre patria ogni giorno attraverso la creazione di opportunità che vanno dalla cultura al business alla scienza. Tommaso, partiamo da qui, da questa tua email a giovanitalenti@radio24.it. La vecchia classe dirigente italiana, spesso accusata di essere gerontocratica e familistica, ha compreso che ne esiste una nuova, giovane, meritocratica e dal profilo internazionale pronta a prenderne il posto? Certo, assolutamente, siamo pronti e soprattutto siamo in tanti. Ma lo hanno capito qui? Certo. Speriamo. Devo dire di sì, assolutamente. Io credo che, anche se purtroppo è ancora un po' nel sottobosco, io devo dire che ho avuto tanto supporto nella nostra iniziativa col GIPI, per esempio a New York, con il Ministero degli Esteri. È innegabile, quando si è in tanti e si fa massa e si fa rumore positivo, prima o poi i muri di gomma si abbattono. Ci contiamo. Non dico che sia facile, ma... Non è facile, ma ci contiamo. Cominciamo dai tuoi studi. Tommaso, ti iscrivi a Scienze Statistiche a Trieste, perché questa scelta? Io veramente ho iniziato ingegneria, poi ho trovato il corso di studio abbastanza noioso e ho deciso di seguire quella che era la mia passione, cioè la matematica. E che bilancio fai di quegli anni universitari? L'ambiente internazionale di Trieste ha stimolato in te la voglia di intraprendere una carriera al di fuori dei confini? Non so, personalmente la voglia di confrontarsi col mondo nasce più da un'esigenza interiore che dall'ambiente universitario, anche se... Mi sembra di capire, non sei molto soddisfatto. No, ma questa è un'opinione personale, no, non sono molto soddisfatto. In Italia cominci a lavorare presso le fonderie Acciaierie Royal. Per fare cosa, ma soprattutto come vieni selezionato? Come avviene il passaggio università-mondo del lavoro nel tuo caso? Sono stato spinto a un'esigenza molto banale, cioè un'esigenza finanziaria, indipendenza finanziaria. Quindi ho iniziato da semplice operaio, perché c'è sempre bisogno di braccia. Il lavoro università, veramente, sono sempre andato a braccetto, per me non c'è stato mai un vero e proprio passaggio. E che ricordo hai di quegli anni in Italia, dell'ambiente di lavoro, del modo di lavorare, soprattutto se paragonato agli anni successivi negli Stati Uniti? Ho bei ricordi nel senso di relazioni con i colleghi e ho avuto la fortuna di lavorare in un'azienda molto dinamica e innovativa. Paragone agli Stati Uniti, credo che non sia paragone. In che senso? Nel senso che gli Stati Uniti, forse un po' per origine storica o per modi di fare, offrono molto ai giovani perché sono improntati sulla meritocrazia, se uno ha voglia di fare gli spazi si trovano, sia nel mondo accademico che nel mondo universitario. E tu ne sei un esempio vivente, come vedremo tra poco. 3 anni dopo, per la stessa società, parti appunto con destinazione Stati Uniti. Come nasce questo trasferimento, per fare cosa, ma soprattutto è stata una scelta semplice? Il trasferimento è nato da un'opportunità di lavoro, vista la mia competenza tecnica, per fare una ricerca di mercato qui nel Nord America. Dal punto di vista di scelta è stata una scelta che ha avuto dei lati positivi e negativi. Certo, all'inizio un po' di timore di andare in un altro paese con abitudini diverse, lasciare le abitudini, la famiglia, diciamo così, il nido. Sì, da una parte è stato difficile, dall'altra parte però molto molto eccitante. Nel 2001 spicchi un salto che ha dell'incredibile, almeno per gli standard italiani. A soli 27 anni diventi CEO, praticamente amministratore delegato di Amcast, azienda americana specializzata nella ricambistica utilizzata nell'industria estrattiva e mineraria. Ora, ci spieghi come si arriva a 27 anni a questa posizione in America? Premetto che l'Amcast non è una multinazionale, è un'azienda piccola media. Tuttavia, io credo che il grosso valore aggiunto che ho e che avevo è che sono un manager che è pronto a sporcarsi le mani. Infatti, tuttora, visto i miei clienti, monto pezzi, aiuto i miei venditori nelle loro attività, tuttavia faccio anche report a queste amministrazioni, sofisticate analisi finanziarie, eccetera, eccetera. Poi sei divenuto presidente di Amcast, no? Esatto, sì. Ma sarebbe stato mai pensabile un incarico di questo prestigio alla tua età in Italia, per di più da straniero? No, assolutamente no, non credo, per diverse ragioni secondo me. Uno è che le aziende italiane sono piuttosto a condizione familiare, quindi si ha un po' di difficoltà a delegare, e poi c'è in Italia è anche difficile, dall'altra parte dello spettro, licenziare, quindi fare selezione all'interno del personale, quindi questo un po' secondo me ostacola anche chi vuole mettersi in gioco. Io do ora il benvenuto a Raffaella Sadun, Assistant Professor of Business Administration ad Harvard, nonché coautrice della ricerca Italian Managers, Fidelity or Performance. Raffaella, in questo saggio voi spiegate chiaramente perché l'Italia non è un paese per giovani manager che guardano ai risultati e soprattutto al merito, ma piuttosto per manager fedeli e relazionali. Allora, ci fai capire, soprattutto perché solo un manager su 5 si conquista la poltrona in base alla performance in Italia? La nostra ricerca mostra che vi è molto ritardo nell'adozione di pratiche manageriali che valorizzano il talento in Italia. Come diceva Tommaso, disagio, probabilmente ci sono delle questioni istituzionali, nel senso che è difficile licenziare e quindi anche le promozioni implicano una flessibilità che in Italia non è possibile avere nelle imprese. Ma vi sono anche delle questioni legate alle preferenze, sia delle imprese che alla proprietà che ai manager stessi. Per quanto riguarda la proprietà, la nostra ricerca mostra che per alcune imprese avere dei manager di talento, comunque molto motivati, potrebbe non dare grossi benefici perché nel loro interesse non c'è tanto la massimizzazione dei profitti. Ma questo non è paradossalmente un modello antieconomico? Cioè, com'è possibile tollerarlo? Non è necessariamente antieconomico, dipende da quello a cui uno tiene. In Italia probabilmente, come dice Tommaso, vi sono imprese che hanno a cuore il mantenimento della proprietà. O della rendita di posizione. Probabilmente, o per esempio poter dare un lavoro ai propri nipoti o ai propri figli. E in questo caso assumere un manager di talento non ha molto senso. È incredibile. Perché assumi una persona esterna che potrebbe paradossalmente compromettere la tua possibilità di favorire i tuoi familiari. È incredibile. Come se ne esce? Molto difficile. Bisogna pensare a come modificare la mentalità delle imprese, ma anche probabilmente la mentalità dei manager, perché vi è anche differenza nella propensione al rischio. Tommaso è un esempio di una persona che, come dice lui, si vuole sporcare le mani e probabilmente ha preso molti rischi nella sua carriera, ma in Italia non tutti i manager sono così. Grazie a Raffaella Sadun. Tommaso, cosa ne pensi? Sono d'accordo. Situazione difficile. Beh, tu conosci bene l'ambiente imprenditoriale italiano perché sei da qualche anno anche il presidente della sezione americana della Confederazione Imprenditori Italiani nel Mondo. Sì. Hai l'impressione che manchi il network all'interno del nostro mondo imprenditoriale? Assolutamente, credo di sì. Credo che contrariamente ad altre etnie o culture, per qualche ragione in Italia non si riesce a fare gruppo, è molto difficile. Eppure sarebbe una win-win situation. Assolutamente, siamo un paese di grandissime potenzialità e se ci uniamo, come si dice, l'unione fa la forza. Secondo te, in Italia esiste una politica industriale che stimoli, aiuti i giovani imprenditori, soprattutto quelli che puntano all'innovazione? Non vedo molto fermento a livello di riforme per l'impresa, per i giovani, per l'occupazione, per l'innovazione, per le ricerche. È un paese un po' bloccato. L'Italia è una storia per me un po' triste. Tuttavia ci sono imprenditori come te. Esatto, che vogliono cambiare. Non dico che io sia un esempio, ma vorrei cercare di lanciare un messaggio a tutti i giovani. Tra poco ne conosciamo un altro. Purtroppo il tempo corre, ho solo la domanda di rito da farti. Tommaso, come vedi l'Italia dall'estero, cosa c'è che non va, cosa cambieresti e come? L'Italia dall'estero è un paese con grandissime potenzialità, con dei giovani un po' dormienti. Cosa cambierei? Vorrei che i ragazzi e i giovani capissero le loro potenzialità, si unissero, facessero massa e si aiutassero a vicenda per cambiare. Giovani talenti. Bentornati a Giovani Talenti, il programma di Radio 24 che vi racconta le storie dei giovani italiani emigrati per affermarsi professionalmente. In questa puntata parliamo della vicenda di Tommaso Veneroso, 36enne manager italiano, presidente della società americana Amcast, nonché a capo della sezione americana degli imprenditori italiani nel mondo. Tommaso è giunto oltreoceano dopo una laurea in scienze statistiche all'Università di Trieste e un'esperienza lavorativa in Friuli. 12 anni fa l'espatrio con l'incarico di sviluppare il settore marketing della sua azienda negli Stati Uniti. Da lì la carriera di Tommaso ha spiccato il volo, con importanti incarichi sia a livello societario sia a livello associativo. E ci raggiunge ora in linea Tommaso Occhipinti. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Tu sei General Manager di Adaptica, giovane azienda innovativa del Nord-Est che progetta, produce e commercializza sistemi di ottica adattativa. Tommaso, tu hai 34 anni e sei un classico esempio di giovane imprenditore innovativo che nasce e si sviluppa in Italia. Ci racconti in breve la storia di Adaptica. Ero ricercatore dell'Università di Padova, ho fatto la mia classica carriera dottorato di ricerca, qualche anno di postdoc successivo a stessa e poi ho avuto l'idea assieme a un altro gruppo di miei compagni, miei amici, di aprire un'azienda. Abbiamo ovviamente sviluppato in maniera ingegneristica e riproducibile in larga massa una cosa che avevamo studiato in università, cioè questo tema dell'ottica adattiva, non penso ci sia il tempo di spiegarla. In un flash. Sappiate che serve per migliorare i sistemi ottici. Ci siamo rimboccati le maniche e abbiamo detto avanti, facciamo un'azienda. Rimboccate le maniche, hai usato la parola giusta. Quanto è facile o difficile aprire un'impresa ad alto contenuto tecnologico in Italia, soprattutto se si è giovani imprenditori? Dico solo la mia esperienza, io questo non voglio che sia vista come l'esempio da dare piuttosto che sia la maggioranza dei casi. Io dico che vivendo nel clima del Nord-Est e nel clima dell'Università di Padova in particolare, abbiamo avuto buone agevolazioni, devo dire, per aprire questa società. In particolare l'Università di Padova ha un centro di trasferimento tecnologico che aiuta molto. Voglio arrivare anche alla questione incubatori di impresa, esatto. Perché voi vi siete appoggiati a M31. Allora, esattamente, ci spieghi, spiegaci come funzionano e quale valore aggiunto forniscono poi a giovani imprenditori come te. Soprattutto, possono costituire un volano per innovare il nostro sistema industriale per davvero? Assolutamente sì. Io sono grande sostenitore di questo. Non a caso, vicino all'Università di Padova, nasce M31 come incubatore privato di impresa. Quindi è un incubatore svincolato da finanziamenti o capitali pubblici, raggruppa vari imprenditori privati della zona e aiuta ad aprire società, li aiuta, li sostiene non solo da un punto di vista finanziario ma anche da un punto di vista manageriale e di consulting. Ricordatevi che io ero un ricercatore e mi sono messo a fare il manager, quindi ho dovuto anche imparare a fare questo. E se non sbaglio, voi vi rivolgete molto ai mercati esteri per allargare il vostro appunto mercato di riferimento, anche per la difficoltà nel trovare un mercato qui in Italia? In realtà entrambi i motivi, nel senso che il nostro prodotto naturalmente nasce per essere venduto in tutto il mondo. Purtroppo gran parte del nostro mercato è universitario e al momento i laboratori di ricerca italiani non hanno la capacità di comprare i nostri sistemi. E lo capiamo bene, purtroppo. A causa di, sì, di tagli, problemi finanziari. Di tagli al budget. Per Confartigianato, l'Italia ha il più alto numero di giovani imprenditori di tutta Europa. Per un newcomer è più giovane e istruito rispetto al passato un nuovo giovane imprenditore italiano. È secondo te un segnale di cambiamento o semplicemente è conseguenza di una crisi che ha tagliato posti di lavoro e spinge i giovani come unica soluzione a mettersi in proprio? Probabilmente è questa motivazione. Io penso che ci sia una sorta di cambiamento in questo momento. Penso che l'Italia, se non fa in maniera diversa, voliamo a picco. Strutture come M31, come incubatore privato di impresa o agevolazioni che si citavano appunto anche prima nella discussione, assolutamente sono tutte cose che devono assolutamente venire, devono aiutare lo sviluppo di nuove imprese nello stile, direi, US. Grazie a Tommaso Chipinti, General Manager di Adaptica. E per chiudere, domanda di rito a Tommaso Veneroso: quale consiglio daresti a un giovane coetaneo che magari in questo momento si trova in difficoltà e che sta pensando, tra le varie vie d'uscita, a un espatrio? Seguire l'esempio di Tommaso Chipinti, direi, esempio lampante, cioè nel senso credere in se stesso, coinvolgersi possibilmente per cambiare le cose. E naturalmente devo fare un plug, contattarci in confederazione, lancio il mio sito www.ciim.us. Non facciamo miracoli, ma sicuramente l'impegno che ci mettiamo è tanto. E siamo giunti allo spazio dedicato alle associazioni e alle iniziative che si occupano di quella che possiamo definire come la nuova emigrazione. Oggi vi parliamo del libro uscito da poco che racconta l'iniziativa Lo Sbarco, una traversata mediterranea dei nostri espatriati che Giovani Talenti ha seguito nel 2010. Leonardo Benucci, redattore del libro Lo Sbarco. Il libro dello sbarco racconta l'esperienza che hanno vissuto centinaia di italiani alla fine di questo giugno, che hanno deciso di imbarcarsi su una nave di linea diretta da Barcellona verso Genova per portare la loro testimonianza sul suolo italiano in modo diretto, in modo fisico. Sono italiani che stanno all'estero da tanto tempo ma che continuano a guardare all'Italia spesso con preoccupazione e con timore, e quindi portano fisicamente la loro esperienza imbarcandosi su questa nave. Qual è il messaggio che esce dal libro? Il messaggio è che l'Italia è come una nave che sta affondando, vista dagli italiani da fuori. Quindi gli italiani che sono fuori vogliono portare la loro indignazione, la loro preoccupazione e la loro esperienza di italiani all'estero per cercare di salvare il loro paese, o perlomeno per cercare di dare una sveglia agli italiani che sono in Italia, a fare un gesto simbolico per capire qual è la deriva culturale, politica, morale verso cui il loro paese sta andando. E che italiani sono questi? Sono giovani? Sono professionisti? Appartengono a tutte le professioni? Che tipo di italiani raccontate? Sono italiani delle fasce di età e di professione più svariata. L'idea è partita da un maestro a